Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il presidente Frattini e il presidente Paino hanno dichiarato apertamente che non è possibile in nessun modo che nei comuni non venga applicata la legge, perché un ufficiale dell'anagrafe dello Stato civile dovrà comunque fare l'unione civile e queste saranno possibili a partire dal 15 agosto. Quindi già da domani i sindaci prendano le prenotazioni, arriverà in questi pochi giorni la modulistica dal Ministero degli Interni e finalmente da Ferragosto confetti arcobaleno per tutti. Finalmente da Ferragosto confetti e arcobaleno per tutti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, lo dice con soddisfazione la senatrice Cirinnà del PD, che è la madrina poi della legge sulle unioni civili, commentando la decisione del Consiglio di Stato di rendere subito applicabile il decreto per le unioni civili. Poi parleremo di questo. Questo è uno dei temi importanti del giorno. Poi naturalmente c'è anche un'altra decisione del Consiglio di Stato, che invece sull'eterologa, fecondazione eterologa, che secondo una legge della Regione Lombardia veniva fatta pagare agli assistiti, invece il Consiglio di Stato ha detto è illegittimo, deve essere pari per tutti, così come quella che non è eterologa. Anche di questo ci occuperemo. Poi c'è sempre in primissimo piano la Turchia, naturalmente, che fra le altre cose solo continuano queste epurazioni di massa, ma ha approvato formalmente lo stato di emergenza e ha sospeso temporaneamente la Convenzione Europea sui diritti umani. Poi la strage di Nizza, non solo sono state fermate 5 persone, la procura antiterrorismo a Parigi ha detto che era un piano, un attacco premeditato addirittura da mesi, ma c'è anche questa fortissima polemica sulle misure di sicurezza, che erano assolutamente inadeguate, secondo una rivelazione di Liberazione e di altri giornali il giorno in cui c'è stata la strage appunto a Nizza. Poi poco fa un'agenzia, Farage, il leader dell'UKIP, del partito euroscettico inglese, che ha detto all'ANSA: l'Italia lasci l'Europa altrimenti la distruggerà. Insomma, i temi sono tantissimi, come sempre, ascoltatrici, cari ascoltatori, e potete scrivere le vostre riflessioni o sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al numero per WhatsApp e SMS, che è 349 238 6666, pagina Facebook, oppure 349 238 6666. Ma intanto vediamo che giornata è stata. Le Olimpiadi di Rio, l'incubo dell'ISIS sui giochi, 10 arresti in Brasile, preparavano un attentato. Turchia sospesa la Convenzione sui diritti umani, stato d'emergenza proclamato per 3 mesi, epurazioni senza fine, arrestati una coppia di giornalisti e attivisti dei diritti civili. La strage di Nizza, governo francese sotto accusa per le falle nella sicurezza, una sola auto della polizia sulla promenade il 14 luglio e l'attentato preparato da mesi. Costo del denaro, la Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati, Draghi dice possibili aiuti alle banche in circostanze eccezionali. Unioni civili, parere favorevole del Consiglio di Stato al via subito, superato il nodo dell'obiezione di coscienza. Fecondazione eterologa, il Consiglio di Stato boccia la legge della Lombardia che fa pagare le coppie sterili che vi ricorrono. Migranti, strage di donne, 21 cadaveri su un gommone, morto anche un uomo, 1000 persone soccorse, anche un bimbo di 7 mesi. Eternit, la Consulta ha deciso si può fare un processo bis, l'amministratore delegato prosciolto per disastro sarà perseguito per omicidio. Doping no all'atletica russa ai giochi olimpici di Rio, il TAS boccia il ricorso, ira del Cremlino. E partiamo però con quella che è la notizia in primissimo piano, cioè il rischio terrorismo sulle Olimpiadi, una paura che aleggiava da tempo ma adesso sembra concretizzarsi, perché un gruppo di potenziali terroristi in grado di colpire alle Olimpiadi di Rio de Janeiro è stato scoperto dalla Polizia Federale brasiliana. Sono una decina gli arresti, tutti di cittadini brasiliani, i quali avrebbero giurato fedeltà all'ISIS offrendosi per colpire durante i giochi. Tra loro c'è anche un minorenne, di questo parleremo tra poco. E poi la Turchia, dove è stata sospesa la Convenzione sui diritti umani. Lo stato di emergenza è stato proclamato per 3 mesi, epurazioni senza fine, vi dicevo, e sono stati arrestati anche una coppia di giornalisti. Sono Orhan Kemal Cengiz, noto giornalista e avvocato per i diritti umani turco, e la moglie Sibel Urtas, anche lei una reporter, sono stati arrestati dalla polizia a Istanbul. Nei giorni scorsi il nome di Cengiz era apparso tra l'altro in una presunta blacklist, lista nera di decine di giornalisti, diffusa da un account Twitter a sostegno del presidente Erdogan. Tra poco ci collegheremo con Istanbul e parleremo anche di che cosa comporta il fatto di sospendere temporaneamente questa Convenzione Europea sui diritti umani, mentre Europa e Stati Uniti fanno forte pressione sulla Turchia affinché sia rispettato lo Stato di diritto. E ora in Francia, custodia cautelare in carcere per 5 sospetti fermati nell'ambito delle indagini sull'attentato di Nizza. Lo ha deciso la procura di Parigi, secondo cui Bolel, il killer, ha agito con dei complici. Avait pu bénéficier de soutien et de complicité dans la préparation et la commission de son acte criminel. Mohamed Boulel, il killer di Nizza, ha goduto di sostegni e complicità e sembra avere previsto e maturato il suo progetto criminale diversi mesi prima di passare all'azione. Lo ha detto il procuratore François Molen in conferenza stampa a Parigi, annunciando l'apertura di un dossier giudiziario. Quanto ai dispositivi di sicurezza la notte del 14 luglio sulla Promenade des Anglais, che secondo lo scoop di Liberazione era quasi completamente sguarnita, solo 2 gli agenti presenti, c'è la reazione di Manuel Valls. Non abbiamo niente da nascondere, ma è insopportabile, ha detto il premier francese, che si è sempre messa in dubbio la parola del governo. Intanto nel pomeriggio un'operazione antiterrorismo non legata alla strage di Nizza e partita da una segnalazione anonima è scattata ad Argenteuil, una baglio di Parigi, una ventina le persone fermate per verifiche. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di banche. Al centro della scena oggi la Banca Centrale Europea, che ha riunito il Consiglio Direttivo. Il presidente Mario Draghi si è soffermato sulle difficoltà degli istituti di credito, interventi anche dal Fondo Monetario Internazionale e dal Centro Studi di Confindustria. Basandosi su regolari analisi economiche e monetarie, annuncia il presidente della BCE Mario Draghi, la Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati nell'area euro nel primo consiglio direttivo di politica monetaria successivo al voto a favore della Brexit. Una decisione in linea con le attese, e la BCE nel comunicato ha fatto sapere anche che i tassi rimarranno a livello attuale o inferiore a lungo. What about the NPLs? A proposito dei crediti deteriorati delle banche in Europa, NPLs, non performing loans, Draghi ha detto che sono un problema per la futura redditività delle banche e la loro capacità di fare prestiti, ed è necessario affrontare la questione. Il Consiglio della BCE, ha detto ancora, ribadisce di essere pronto a usare tutti gli strumenti disponibili entro il suo mandato, e la soluzione di un paracadute pubblico per le banche, backstop, è possibile in casi eccezionali o quando il mercato dei crediti deteriorati e sotto pressione, per evitare una loro svendita. Sarebbe utile anche con misure legislative, dice il presidente della BCE, ma deve avvenire in casi eccezionali e va trovato un accordo a livello europeo. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È un documento preparato dall'FMI in vista del G20 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali a misurare lo stato di salute dell'economia globale. La crescita economica resta debole e fragile, con rischi a ribasso, spiegano allora da Washington. La Brexit, in particolare secondo il Fondo Monetario, è uno dei fattori di rischio, ma anche prima del voto britannico la ripresa era debole. Ad incidere sulla crescita, secondo l'FMI, sono in Europa anche i problemi del settore bancario, da qui la necessità che le istituzioni di Bruxelles li affrontino, mentre le banche centrali devono continuare a usare tutti gli strumenti disponibili per spingere l'inflazione, inclusi i tassi di interesse negativi. Il Centro Studi Confindustria, intanto, mette in guardia su un nuovo credit crunch in Italia. Il rischio, secondo Confindustria, deriva dall'accumulo delle sofferenze bancarie e dal calo dei titoli in borsa dopo il referendum sulla Brexit. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo di queste due decisioni del Consiglio di Stato. Una che riguarda le unioni civili, ha dato parere favorevole il Consiglio di Stato al via subito, quindi già da Ferragosto, superato il nodo dell'obiezione di coscienza, capiremo poi in che senso, ne parleremo più tardi con effetto notte. E poi anche sulla fecondazione eterologa, il Consiglio di Stato boccia la legge della Lombardia che fa pagare le coppie sterili che vi ricorrono. Dopo la bocciatura del TAR, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della Regione Lombardia. Non si può discriminare tra chi sceglie la fecondazione omologa, per cui una parte dei costi viene sostenuta dalla Regione, e l'eterologa, completamente a carico degli assistiti. La determinazione regionale di distinguere tra la fecondazione omologa e quella eterologa non risulta giustificata, dice il Consiglio di Stato, aggiungendo che la normativa realizza una disparità di trattamento lesivo al diritto alla salute di coppie affette da sterilità o infertilità assolute. Nel 2014, dopo che la Corte Costituzionale aveva riammesso anche in Italia la fecondazione eterologa, la Regione Lombardia aveva stabilito che le coppie intenzionate ad accedere a questa terapia dovessero pagare il costo intero della prestazione. Il costo oscilla, a seconda dei casi, tra i 1.500 e i 4.000 euro. La Lombardia finora era un unicum in Italia, dal momento che la stessa cura in Emilia è gratis, in Toscana costa 500 euro e in Veneto circa 300, l'equivalente del semplice ticket sanitario. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora strage di migranti, strage di donne, in questo caso nel canale di Sicilia, con uno spettacolo di orrore e morte che si è presentato agli occhi dei soccorritori, con a bordo Aquarius di SOS Mediterranee, questa nave con a bordo l'equipe di Medici Senza Frontiere che hanno scorto cadaveri ammonticchiati su un gommone mentre altri migranti tendevano le mani per disperazione chiedendo aiuto dopo aver trascorso non si sa ancora quante ore con i cadaveri accanto. E poi è notizia di poco fa, altri 17 cadaveri sono stati recuperati su un barcone di legno carico di migranti in navigazione nel canale di Sicilia a circa 20 miglia dalle coste libiche. Le vittime, tutte di sesso maschile, in questo caso tra loro un minore, si aggiungono appunto alle 21 morti di cui parlavamo prima. Adesso parliamo di Eternit, perché il processo relativo ad Eternit del Tribunale di Torino a Stefan Schmidaini, accusato di omicidio volontario per la morte da amianto di 258 persone, può andare avanti. E quanto discende questo da una decisione della Corte Costituzionale per cui le persone non si possono processare due volte per lo stesso fatto. Nel senso che Schmidaini era stato prosciolto per prescrizione da una precedente accusa di disastro ambientale doloso, dichiarando incostituzionale una sorta di automatismo contenuto nel codice. La Consulta riconosce più discrezionalità ai giudici, cioè in questo caso invece si può parlare di omicidio. Scioperi, sabato voli irregolari. Il ministro dei trasporti Delrio ha infatti deciso con un'ordinanza il differimento ad altra data degli scioperi proclamati dai sindacati nel trasporto aereo riguardanti Alitalia, ENAV e Meridiana. Quindi questo sabato si vola regolarmente. E in chiusura lo sport e il doping. È un precedente pericolosissimo, così il Comitato Olimpico Russo ha commentato la bocciatura da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport del ricorso contro il bando olimpico da Rio 2016. L'atletica russa non sarà a Rio de Janeiro. Per il resto dello sport russo bisognerà attendere domenica, quando il CIO esaminerà il verdetto del TAS per poi annunciare la sua decisione finale sulla possibile esclusione collettiva della Russia dai giochi brasiliani. Giochi brasiliani con retrogusto da guerra fredda, quando gli americani boicottarono Mosca 80 e i sovietici risposero a Los Angeles 84. Ora però è il doping a decidere chi andrà o meno in Brasile, ma la teoria del complotto ha parecchi sostenitori in un paese che fatica ad accettare l'essenza dell'accusa svizzero-canadese, cioè che sia stato lo stesso Ministero dello Sport a coprire e poi affinare un sistema di inganno che, se portato alla luce, avrebbe offuscato l'immagine dei giochi invernali di Sochi 2014. L'ultimo appello, presentato da 68 atleti che chiedevano di andare a Rio sulla base del principio della responsabilità soggettiva, è stato respinto dal Tribunale di Losanna. Non saranno dunque a Rio campioni come la Isinbayeva, Menkov e Kucina, mentre ci sarà l'ottocentista Yulia Stepanova, dalle cui rivelazione è nato lo scandalo che oggi travolge il sistema russo dello sport. Gigi Donnelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo è il quadro della giornata complessivamente. Poi, come sempre, tra poco comincerò ad approfondire alcuni temi con gli ospiti. Intanto le vostre riflessioni anche continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Per esempio Chiara scrive: comincio a pensare che Erdogan avesse già qualche settimana fa puntato sul piano B, cioè Putin, visto che l'Europa non si muoveva così rapidamente come lui avrebbe voluto, quindi ha gettato la maschera e ha fatto semplicemente quello che avrebbe voluto sempre fare, repressione eccetera. Non escludo più che abbia mosso agenti provocatori per far partire la scintilla e aver previsto poi come agire. Domenico dice: diventa sempre più chiaro che in tutta questa storia del golpe in Turchia ci sia qualcosa che non quadra. Il finto golpe dell'altro giorno è servito per effettuare quello vero di Erdogan. A proposito della Russia, che citava questa ascoltatrice, vedevo poco fa un'agenzia appena arrivata: la Russia esorta la Turchia ad agire nel rispetto della legge e osservare i diritti umani, che sono una priorità. Qualcuno dirà che la Russia lo dice perché lo sta dicendo il resto della comunità internazionale, però questa è la dichiarazione che arriva dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo. Continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che è il numero per i messaggi e per i WhatsApp. Adesso viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E cominciamo adesso a entrare nel cuore delle notizie. Roberta Giordano sempre con voi. Tra poco comincerò a salutare i primi ospiti. Intanto sempre i vostri messaggi, le vostre riflessioni sui temi del giorno che arrivano alla pagina Facebook di Effetto Notte e al numero per i WhatsApp e SMS che è 349-238-6666. Michele, per esempio, più la maggior parte dei messaggi sono sulla Turchia, lui però dice: è bellissima la notizia sulle unioni civili, finalmente potrò usufruire di questi pochi diritti con il mio compagno, anche per l'eterologa è la magistratura che fa da apripista. La causa, dice, politica clericale e inetta. Poi lo ringrazio invece per il commento che fa dopo. Allora, adesso vi ricordo quali sono le notizie principali e cominciamo ad approfondirne alcune. L'incubo dell'ISIS sui giochi di Rio, 10 arresti in Brasile, preparavano un attentato, ne parleremo tra pochissimo. La Turchia sospende la convenzione sui diritti umani, arrestati i giornalisti. 007 russi avrebbero avvisato Erdogan del golpe. Draghi, presidente della BCE, lascia i tassi invariati ed apre al paracadute, diciamo, dello Stato per le banche in casi eccezionali. La strage di Nizza, premeditata da mesi con altri complici, l'indagine sulle falle nella sicurezza e il governo sotto accusa per questa inadeguatezza. E poi invece sotto accusa è Di Maio del Movimento 5 Stelle perché, parlando di lobby, avrebbe incluso anche le lobby dei malati di cancro. Poi si scusa e il PD attacca, lui dice sono strumentalizzazioni, malumori del Movimento 5 Stelle sul web. NATO e Ankara, lo strappo di Trump che chiude la convention dicendo nessuna difesa automatica degli alleati, non interverremo per forza, non faremo pressioni sulla Turchia, dice Trump. E poi via libera della consulta, può andare avanti il processo Eternit bis e le due sentenze del Consiglio di Stato su eterologa, quindi boccia la legge della regione Lombardia che fa pagare gli assistiti per l'eterologa. E poi unioni civili, si può partire da Ferragosto, di questo parleremo. E doping, il TAS, il Tribunale Arbitrale Sportivo, vieta i giochi all'atletica russa. E parliamo proprio dei giochi adesso, delle Olimpiadi di Rio 2016, perché insomma, sembrano veramente i giochi più travagliati della storia, almeno della storia recente, nel senso che si è parlato molto di Zika, quindi del virus portato dalla zanzara. Alcuni atleti infatti hanno declinato l'invito ad andare a Rio, anzi l'ha fatto della qualificazione. Poi si è parlato anche del doping e della notizia di oggi, che il CIO, il TAS, anzi, ha deciso che gli atleti russi non potranno andare per via del doping a Rio 2016. Adesso la paura maggiore che aleggiava intorno alle Olimpiadi come ai grandi eventi, anche agli Europei 2016, poi per fortuna non è successo niente, è quella dell'incubo terrorismo, che sembra purtroppo concretizzarsi, o almeno per il momento c'è stata un'opera di prevenzione, nel senso che la polizia brasiliana ha arrestato 10 lupi solitari, tutti giovani, uno addirittura minorenne, come ci racconta adesso Cristina Carpinelli. Buonasera Cristina. Buonasera Roberta. Sì, allora intanto sono tutti cittadini brasiliani, si sono tutti formati, sono stati indottrinati alla Jihad attraverso internet. E come vedrai poi il quadro è davvero inquietante. Questo è il quadro di questi 10 sospettati che, come dicevi, oggi la polizia ha arrestato in Brasile. L'accusa è di aver progettato un attacco terroristico che avrebbe dovuto compiersi appunto in occasione delle Olimpiadi di Rio, che cominceranno tra pochissimo, il 5 agosto. Dicevamo, inquietante ritratto emerso di questo gruppo tenuto sotto osservazione dall'intelligence brasiliana già da questa primavera. Stando a quanto ha riportato proprio oggi il ministro della giustizia brasiliano Alexandre de Moraes, il gruppo era formato da persone che tra di loro non si conoscevano se non attraverso contatti via WhatsApp e Telegram, quindi degli esaltati che si autoesaltavano attraverso queste chat. Alcuni dei fermati avevano giurato fedeltà allo Stato Islamico, però alcune fonti investigative hanno riferito che non c'è mai stato un collegamento tra l'ISIS e il gruppo e non c'è stato alcun tipo di sostegno economico da parte del califfato nei confronti di questo gruppo. Quindi è ancora più grave questo, no Cristina? Perché esatto, sono brasiliani, quindi non vengono da paesi molto giovani, arabi o musulmani, religione musulmana, molto giovani, neanche finanziati, quindi neanche motivati da soldi, no? Da chissà quali promesse. E appunto è l'incubo questo dei lupi solitari che suscettibili, no, di coinvolgimento così in qualsiasi parte del mondo si trovino, in qualsiasi situazione. Questo esatto, è stata definita addirittura, secondo me questa è la definizione migliore, una cellula di terroristi amatoriali. Paradossale, quasi ironica. Esatto, dice, ironica, ma c'è poco da ridere, concetto. Perché tra l'altro una di queste persone ha tentato anche di comprare delle armi attraverso internet, e quindi poi di fatto è scattata l'operazione degli arresti, un'operazione molto ampia che è ancora in corso e che non va sottovalutata di certo. Il rischio dei cosiddetti lupi solitari, come dicevi, resta infatti la paura, lo spettro più alto in vista di queste Olimpiadi. Mancano anche 15 giorni tra l'altro. Esatto, ormai siamo a ridosso. E poi proprio mercoledì il site, che è il sito che monitora la galassia jihadista, aveva detto che l'ISIS avrebbe rivolto un appello sul web proprio a questi individui, a questi lupi solitari, invitandoli a colpire dove poteva. Grazie Cristina Carpinelli. Ciao Cristina. Ciao Roberta. Ciao. E di bene in meglio, perché dai rischi di terrorismo sul Rio andiamo in Turchia, dove il Parlamento ha approvato formalmente lo stato di emergenza proclamato per 3 mesi dopo il tentato golpe di Stato. Le epurazioni del paese continuano a un ritmo serratissimo, sono stati fermati anche 2 giornalisti, moglie e marito, attivisti tra l'altro dei diritti civili, e il portavoce del governo di Ankara, Kurtulmus, se ho pronunciato bene, ha aggiunto che l'esecutivo spera di poter evocare lo stato di emergenza tra 40-50 giorni, ma ha anche detto che c'è il diritto di riunirsi, di manifestare, non verrà cancellato, non è previsto alcun coprifuoco, non ci sarà alcun passo indietro nel progresso democratico. Queste sono le sue parole. Marco Barbonaglia, che ormai ci sta tenendo aggiornati su quello che succede giorno per giorno da Istanbul. Marco, buonasera. Buonasera. Quindi, questa sera senza Muezzin. Senza Muezzin, che ieri ti sovrastava a un certo punto, però era suggestivo sicuramente. Senti, quindi tu che vivi giorno per giorno la città di Istanbul, che dopo Ankara, insomma, la città principale, e oggi abbiamo detto proclamato lo stato d'emergenza, anche sospesa la Convenzione Europea dei Diritti Umani, di cui parleremo in particolare dopo. Che cosa succede per le strade? E poi c'è questa pressione, lo sai, internazionale, no? Dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea, affinché sia rispettato lo stato di diritto. Alcuni ascoltatori scrivono parole al vento, ci vogliono i fatti. Certo. Io sono stato molto tempo in piazza Taksim, anche oggi ho passato quasi tutta la giornata in piazza Taksim. Ricordiamo solo una cosa, Marco, che è la piazza simbolo della laicità, dei laici della Turchia, e che dove invece ieri solo c'erano caroselli, diciamo, di fedelissimi di Erdogan, ma anche questo striscione dove dicevano Gulen ti impiccheremo, che sarebbe questo predicatore che ritenuto il colpevole di questo golpe, il mandante, insomma, che sta negli Stati Uniti. Certo, questa piazza è tutti i giorni piena di gente, come anche altre zone di Istanbul, perché Erdogan in persona ha chiesto al suo popolo, alla gente in generale, oggi con un altro SMS scritto, firmato da lui, di non lasciare le strade, di non lasciare le piazze, di vigilare che non ci siano altri tentativi di rovesciare il potere. I mezzi pubblici non si pagano per una settimana, in modo che la gente si possa muovere e possa arrivare nelle piazze dove ci sono dei maxi schermi, eccetera. Ora, il clima della piazza è un po' strano, nel senso che ci sono viste queste cose, e ci sono state, che tu stai descrivendo, però io devo dire per onestà che in tutte le ore che ho passato in piazza la gente tendenzialmente è molto pacifica, piuttosto socievole anche con noi giornalisti. Ho parlato anche con dei colleghi della televisione, che quindi sono più visibili di me, e devo dire che c'è questo clima. Poi è ovvio, ci sono degli elementi, evidentemente, se scrivono queste cose che abbiamo visto tutti, se hanno addirittura anche bruciato, come abbiamo visto, un fantoccio di Gulen, che sono evidentemente meno pacifici. Però l'atmosfera, c'è un po' una sorta di scollamento tra queste prese di posizione di cui parlavi anche prima, tensioni a livello internazionale, è una piazza che tutto sommato ha qualche elemento di provocazione, ma insomma non è un posto dove ci si sente non al sicuro, ecco, questo voglio dire. Marco, tu sei un giornalista, vabbè, racconti quello che vedi, la cronaca, però qui oltre a militari, abbiamo detto dipendenti pubblici, funzionari, anche dei ministeri, insegnanti, insomma, stanno arrestando un sacco di gente, e non lo so, dal punto di vista della libertà di stampa, nessuno ti ha controllato, ti dà noia? Speriamo che continui, per ora no, speriamo che continui così. Certo, però devo dire che per ora quello che posso vedere io è che i giornalisti di giornali, anche ho parlato con dei colleghi del Cumhuriyet, per esempio, che è il giornale di Can Dündar, stato nell'occhio del manierino, insomma, parecchio, ho parlato con colleghi del Doğan, agenti, sono vari giornali che non sono governativi, e si sentono, insomma, anche loro stanno vedendo cosa succede, ma per il momento sono stati presi di mira in maniera molto forte sempre i giornali e le radio riconducibili a Gulen in particolar modo. Ne hanno chiuse 24 tra radio e TV. Ne hanno chiuse 24, ma erano gli ultimi rimasti, diciamo che Gulen aveva un impero mediatico e sono stati chiusi praticamente tutti. Ma io penso che in questo momento chi è collegato in qualche modo a Fethullah Gulen viene comunque epurato, ed è stata una cosa anche dichiarata, a meno che uno non faccia il barista, allora può continuare a farlo, ma dalle altre, se uno fa un lavoro, perché gli insegnanti per esempio, perché Fethullah Gulen ha decine di università e centinaia di scuole preparatorie che in un sistema come quello turco, che è super competitivo come sistema scolastico, sono molto importanti, sono scuole che preparano ai test di ammissione per le scuole più prestigiose del paese. Lui con queste scuole hanno sempre avuto due funzioni: innanzitutto sono fonte di grandi introiti, è molto bravo a fare questo, queste scuole sono molto, molto buone, e in secondo luogo seleziona quelli che poi diventeranno la classe dirigente del domani, che entrano a far parte della sua sfera. Poi il discorso è vedere come questo viene utilizzato, secondo Erdogan per atti terroristici, secondo Gulen no. Grazie Marco Barbonaglia da Istanbul. Ciao Marco, buon lavoro, poi ci aggiorniamo anche Ciao. Domani immagino. Ciao. Grazie, buonasera. Europa 24 notte. Oh, a proposito di Europa, diciamo che nel primo giorno in cui è entrato in vigore lo stato di emergenza in Turchia, proclamato per i prossimi 3 mesi dal presidente Erdogan, il governo turco ha deciso di non applicare in via temporanea la Convenzione europea per i diritti umani. Che cos'è questo trattato internazionale e cosa può comportare, per esempio, in un paese come la Turchia? Il sospenderlo lo chiedo a Valeria Talbot, che è responsabile del programma Medio Oriente dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera, dottoressa Talbot. Buonasera a voi. Quindi la Convenzione per la difesa dei diritti dell'uomo, che è in vigore dal 1953, vincola 47 stati europei, incluso Turchia, Russia, Ucraina, Georgia e Azerbaigian, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Una sua sospensione va da sé, comporta nel caso della Turchia una maggiore compressione delle libertà in un paese in cui negli ultimi anni abbiamo visto una progressiva stretta sui diritti civili, sulle libertà individuali, in particolare la libertà di stampa, lo ricordavate voi, giornalisti sospettati o comunque affiliati al movimento di Gulen o in altri casi sospettati di condurre attività terroristiche sono stati incarcerati. In questo momento quindi la Turchia si prepara ad una ulteriore stretta. La stessa convenzione prevede che in caso di guerra o comunque in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, un paese può chiedere la sospensione temporanea. Mi pare l'avesse fatto anche la Francia nello stato di emergenza nel 2015, no? Sì. La Francia dopo gli attentati dopo di novembre. Attentati sì, perché di novembre. Come diceva lei, la possibilità di sospensione giusto per motivi di pubblica sicurezza o di minaccia alla nazione. È anche vero, sempre come ricordava anche lei, dottoressa Talbot, che in Turchia forse i diritti umani, i diritti civili in realtà erano sospesi da un bel po' di tempo, anche se in questo modo è stato ufficializzato con la sospensione di questa convenzione europea. Dal 2013 in poi, dalle famose manifestazioni di Gezi Park, c'è stata una progressiva stretta, una reazione appunto da parte del governo molto dura nei confronti di ogni forma di opposizione. In quel caso si trattava di manifestazioni che avevano raccolto, catalizzato il dissenso di quella parte della popolazione che non sosteneva Erdogan. Manifestazioni spontanee che però erano poi sfociate in un grosso movimento di protesta sia a Istanbul sia ad Ankara. Un'ulteriore stretta si era poi verificata nel dicembre del 2013 con gli scandali di corruzione che avevano investito alte cariche del governo e sembrerebbe anche lo stesso figlio di Erdogan. Scandalo che il governo allora retto da Erdogan, che era primo ministro e non ancora presidente della Repubblica, aveva ricondotto a Fethullah Gulen, da lì una stretta nei confronti di quella che è una presenza capillare, come ricordavate prima, dei aderenti, degli affiliati al movimento di Gulen, che proprio perché gestisce tutta una serie di scuole preparatorie, di università, comunque molto addentro nel mondo dell'istruzione, si è poi assicurato una presenza capillare in posti chiave dello Stato. Dottoressa Talbot, Stati Uniti, ma naturalmente anche molto l'Unione Europea, stanno facendo proprio pressing perché la repressione di Erdogan non rappresenti la fine dei diritti nel paese e anche l'inizio di una caccia alle streghe, anche se sembra insomma che questa caccia sia sempre più voluminosa, no? E questo naturalmente, per chiudere, non mette, diciamo, nella posizione migliore la Turchia per ambire prima o poi, anche se sono tanti anni che ha fatto questa richiesta, a entrare nell'Unione Europea. Per chiudere, ci sembra che non sia, no, la direzione giusta. Assolutamente no, già da anni il processo negoziale con l'Unione Europea è in fase di stallo, ci sono stati molti alti, molti bassi, non soltanto per questa erosione del processo democratico interno in Turchia, sono tante le ragioni, non da ultimo l'irrisolta questione cipriota. È chiaro che gli eventi degli ultimi giorni non pongono la Turchia come, certo, il candidato ideale. Tanto che anche la stessa Unione Europea, per voce dell'alto rappresentante, ha detto che nel caso in cui la Turchia dovesse reintrodurre la pena di morte, abolita nel 2004, è esclusa. È fuori dall'Europa, così ha detto infatti l'alta rappresentante Mogherini. Dottoressa Valeria Talbot, la ringrazio e le auguro buona continuazione. Allora, buona serata. Grazie e buona serata. Grazie. Direi che ci prendiamo adesso una piccola pausa, così voi continuate con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Cristiano invece fa il suo commento sulla convention a Cleveland, dice: se lì fosse salito sul palco Fred Flintstone, forse quello dei cartoni animati, forse avremmo assistito a un'oratoria più originale, non a quella vera primitiva sciatteria pacchianesca e volgarissima di una finta democrazia che solo odio e fascismo mal celati. A proposito, dice, di Trump e della sua convention. Continuate, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 per WhatsApp, SMS. Ci sentiamo a momenti. Dalla Brexit all'immigrazione dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione, al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto dal 1 agosto, tutti i giorni, alle 16, qui, su Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando, perché il giro del mondo si fa con le notizie, ma è anche vero che ascoltatori e ascoltatrici scrivono da varie latitudini. Continuiamo con l'approfondire alcuni temi in particolare, tra poco vi ricordo le notizie più importanti. Intanto anche i vostri messaggi, per esempio c'è Antonio che scrive: alla Germania e al Regno Unito non interessa niente dei diritti civili, sono solo preoccupati degli ingenti investimenti in Turchia. Vabbè, qui si è parlato molto in questi giorni della realpolitik, cioè che in fondo i rapporti internazionali sono fatti anche di compromessi e di quello che conviene più di quello che è giusto. E poi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Per esempio leggevo questo messaggio di Ilaria che dice: ormai essendosi ravvicinato a Putin, cosa gliene frega Erdogan ancora di entrare in Europa? Mi sembra che si stia apparecchiando un reame in Medio Oriente, dice. Insomma, comunque negli ultimi tempi ha ristretto di nuovo buoni rapporti con, appunto, con la Russia, con Israele, anche con la Siria, anche se oggi Assad, il presidente siriano, lo ha criticato molto. Comunque le notizie principali, ve le ricordo, sono le Olimpiadi di Rio con l'incubo dell'ISIS sui giochi, 10 arresti in Brasile, preparavano un attentato, ne abbiamo parlato, Turchia sospesa la convenzione sui diritti umani, stato di emergenza proclamato per 3 mesi, epurazioni senza fine, arrestata anche una coppia di giornalisti e attivisti dei diritti civili. E poi la strage di Nizza, di cui parleremo tra pochissimo, col governo francese sotto accusa per le falle nella sicurezza e l'inchiesta che rivela l'attentato era preparato da mesi. Costo del denaro, la BCE lascia i tassi invariati. Draghi dice sono possibili aiuti alle banche in circostanze eccezionali. Unioni civili, parere favorevole del Consiglio di Stato al via subito, superato il nodo dell'obiezione di coscienza, e c'è un aggiornamento del ministro della giustizia Orlando che dice i decreti attuativi per le unioni civili saranno pronti prima della pausa estiva. E quindi parliamo adesso, torniamo a parlare della strage di Nizza, nella quale sono morte 84 persone, tra cui 10 bambini, 5 italiani, 6 se si include anche un ventenne italo-americano. E ci sono delle novità per quanto riguarda l'inchiesta. La Procura Antiterrorismo di Parigi ha rivelato che l'attacco di Nizza è stato premeditato da diversi mesi e non da pochi giorni come si pensava in precedenza, e l'attentatore ha avuto dei sostegni e delle complicità. Questa dichiarazione è poi stata seguita dall'annuncio dell'incriminazione, della messa in detenzione provvisoria di 5 delle persone che erano state fermate nei giorni scorsi a Nizza. Questo avviene, questa rivelazione, nel giorno in cui scoppia violenta la polemica, che in realtà era sotto traccia un po' sin dall'inizio di questi fatti terribili, sulle importanti falle e le inadeguatezze emerse nel dispositivo di sorveglianza della Promenade des Anglais di Nizza, in lungomare, la sera dell'attentato, e c'è questa tempesta sulle autorità locali e nazionali. Prima di tutto il ministro dell'interno Cazeneuve, in furia su di lui questa tempesta di polemiche scatenata dal quotidiano Libération, che in prima pagina ha lanciato questa accusa, cioè accusando il governo francese di aver detto delle bugie sulle forze dell'ordine presenti quella sera, perché dice il quotidiano un solo veicolo di polizia, quello degli agenti municipali, si trovava in mezzo alla carreggiata dal lato del mare. Ad aggravare la situazione un altro quotidiano, Le Figaro, che dice la vice direzione francese responsabile dell'antiterrorismo in Francia ha inviato agli agenti che gestiscono la videosorveglianza della città di Nizza una specifica richiesta per chiedere la cancellazione completa delle 24 ore di immagini provenienti dalle 6 telecamere numerate, ma anche da tutte le scene filmate dall'inizio dell'attentato sulla Promenade des Anglais, una volontà di nascondere le prove. Ne parliamo con Jean-Pierre Darny, direttore del programma Sicurezza e Difesa dell'OIAI, Istituto Affari Internazionali. Buonasera Darny. Buonasera. Quindi questa polemica da una parte con l'accusa di Liberazione, e poi Le Figaro che aggiunge che la vice direzione francese responsabile di antiterrorismo ha ordinato di cancellare tutte queste immagini della videosorveglianza di quella sera. Ma è una polemica che vede due giornali, un giornale di sinistra di e un sinistra, altro di destra. Però di sinistra, però critico ai confronti del governo, quindi questo non va dimenticato, e un altro di destra che ovviamente ha una posizione anche essa molto critica ai confronti del governo, che vanno di punta. È ovvio che anche le prime dichiarazioni di critica su sapere se c'era una macchina o no, il numero di agenti, sono state fatte a Christian Sodi, che è il vice sindaco di Nizza, già sindaco, ma anche fedelissimo di Sarkozy, presidente della regione PACA. E tutto questo avviene in un contesto di competizione elettorale per le presidenziali e di rincorsa anche alle tematiche del Front National, che è molto forte del sud-est. Quindi lei dice ha un sapore politico tutto questo. Beh, non va negato che magari vanno fatte delle verifiche, che tutte le cose non siano completamente chiari. Insomma, però esiste una magistratura che magari farà chiarezza su alcuni punti, perché qualcuno, tra l'altro, di ferito ha detto voglio fare una causa contro lo Stato, la cittadinanza, non ci avrebbe protetto a dovere, e va bene. Sì, però, infatti c'è anche questa causa da parte delle famiglie di alcune vittime. Sì, ma questo perché no? La magistratura farà il suo dovere. Però esiste anche una stampa che è molto polemica e che sta in un gioco politico interno di competizione elettorale e anche di competizione col Front Nazionale. Quindi non va dimenticato che non esiste una verità, ma delle verità molto relative. Darny, però mi dica questa cosa, lei che è esperto di sicurezza, secondo lei le forze dell'ordine e comunque le misure di sicurezza approntate dalla Francia, anche in questo caso, sono all'altezza oppure no? La Francia ha fatto un lavoro eccezionale, soprattutto dal Bataclan in poi. Non va dimenticato che nell'ultimo anno la Francia ha fermato 10 attentati, quindi uno al meglio. Purtroppo l'undicesimo ha bucato la rete di sicurezza, però va preso in conto l'attivismo delle forze di sicurezza e la loro veramente grande dedizione. Allora, non va negato che non c'è stato un attentato a Nizza che crea un problema, magari uno operazionalmente può andare a vedere col segno del dopo, ma non va neanche dimenticato questo sforzo enorme, questi progressi che sono stati fatti, soprattutto dopo Charlie Hebdo, ma ancora di più da novembre in poi, dopo il Bataclan. Grazie allora Jean-Pierre Darnay. Grazie. Grazie a voi. Grazie del suo intervento. Adesso direi che mentre voi continuate con i vostri messaggi, le vostre riflessioni al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche questo numero per messaggi WhatsApp, sto leggendo alcune notizie, ecco perché sono leggermente distratta, ci sentiamo a momenti, dopo la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi. Stefano da Forlì scrive: è sufficiente che un Parlamento eletto democraticamente voti per l'abolizione dei diritti come succede in Turchia perché questo atto politico sia da ritenere legittimo? Dicevamo che questa Convenzione europea sui diritti umani prevede che in casi eccezionali e di rischio per la nazione così si possa agire. Lo ha fatto anche la Francia, l'abbiamo ricordato, nel 2015 dopo gli attentati al Bataclan, e quindi la Turchia, poi l'abbiamo detto, insomma, i diritti in realtà civili non è che li rispetti da molto tempo. Adesso vi ricordo le notizie principali, poi cambiamo argomento, siamo più sull'Italia e comunque le notizie sono appunto l'incubo dell'ISIS sui giochi di Rio, 10 arresti in Brasile preparavano un attentato, la Turchia che sospende la Convenzione sui diritti umani, arrestati anche giornalisti e continua le corruzioni. Le epurazioni. Draghi, presidente della BCE, apre al paracadute, diciamo così, dello Stato per le banche in difficoltà, dice solo in casi eccezionali, ma devono risolvere le loro sofferenze. La strage di Nizza, ne abbiamo appena parlato, premeditata da mesi con altri complici, e poi questa indagine sulle falle nella sicurezza. E via libera della Consulta, può andare avanti il processo Eternit bis, l'amministratore delegato prosciolto per disastro sarà perseguito per omicidio. E poi due decisioni del Consiglio di Stato, di cui uno di questi parleremo adesso. Parliamo di unioni civili. Dopo l'approvazione in Italia nel maggio scorso della legge che regolamenta l'unione di due persone dello stesso sesso, si attendeva che questa legge potesse essere effettivamente applicata, cioè molti si chiedevano quando sarà possibile. Ebbene, il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole al decreto attuativo della legge sulle unioni civili, la legge sarà quindi operativa a brevissimo, probabilmente già dal prossimo Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Paino, ha detto: con questo decreto comincerà la nuova stagione dell'unione civili. E Franco Frattini, presidente delle sezioni atti normativi del Consiglio di Stato, ha detto: entro Ferragosto potrà essere celebrata la prima unione civile. Abbiamo sentito all'inizio la contentezza della senatrice PD Cirinnà, che è la madrina di questa legge, ma ne parliamo con Antonio Rotelli, avvocato di Rete Lanford, che da tempo sostiene i diritti LGBT. Buonasera, avvocato Rotelli. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Quindi ci spiega esattamente che cosa è successo con questo per il Consiglio di Stato e che cosa quindi avverrà nei prossimi giorni, insomma. Cosa è possibile questo, fare? Sì. Che la legge approvata a maggio prevede che venga adottato un decreto ponte, un decreto provvisorio, per consentire alla legge di poter essere applicata in attesa che il governo adotti i decreti legislativi definitivi che la legge stessa prevede. Cioè varie norme che dicono esattamente come ci si deve comportare nei comuni, no? Con le coppie che fanno questa richiesta. Esatto, anche questo, cioè come materialmente dovrà essere svolta la cerimonia con la quale due persone si uniscono civilmente, come debbono essere raccolte le loro volontà e come deve procedere l'ufficiale di Stato civile. Quindi questo in attesa dei decreti attuativi, però poco fa il ministro della giustizia Orlando diceva: dalla Spezia i decreti attuativi per le unioni civili saranno pronti prima della pausa estiva, quindi si parla entro fine luglio. Lo speriamo, perché per i decreti legislativi, quindi quelli definitivi, il governo ha 6 mesi di tempo dal 5 di maggio. Mentre per il decreto ponte aveva un mese di tempo. Normalmente quando viene adottato un decreto viene anche raccolto il parere del Consiglio di Stato, quindi quello che è accaduto oggi è che il Consiglio di Stato ha rilasciato il proprio parere sul decreto, sulla bozza di decreto che il governo aveva adottato. Quindi in parole povere, avvocato Rotelli, per far capire tutti, ma in particolare a chi fosse interessato, che cosa è possibile fare da oggi, da domani? Che cosa? Ma in realtà ci sono dei comuni che stanno già raccogliendo delle prenotazioni. Milano e Bologna mi vengono in mente, per esempio, così che quando questo decreto verrà effettivamente adottato dal Consiglio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si potranno cominciare a celebrare le unioni. In realtà adesso, dopo il parere del Consiglio di Stato, si aspetta ancora il parere della Corte dei Conti, che è un parere sugli eventuali costi che possano derivare da questo decreto. Quello è l'ultimo passaggio, diciamo così, formale, alla fine il Presidente potrà adottare il decreto. Adottato il decreto si potranno sottoscrivere le unioni civili. Rotelli, ci sono però i detrattori, per esempio c'è Rampelli di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, che dice ora si deve esprimere la Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato è l'organo della giustizia amministrativa, il parere della legittimità costituzionale spetta soltanto alla Consulta, quindi ci deve essere questo ulteriore passaggio? No, assolutamente no. La Corte Costituzionale nel nostro ordinamento interviene soltanto se un giudice nel corso di un procedimento giudiziario solleva una questione di costituzionalità. In questo momento non c'è nulla del genere in piedi da nessuna parte in Italia e non ci può neanche essere fino a quando non ci potrebbe neanche essere fino a quando non ci sono delle celebrazioni effettive di unioni civili. Mi sembra improbabile che una questione di costituzionalità in questo momento possa arrivare davanti alla Corte Costituzionale. Vorrei ricordare che ci sono stati dei senatori che hanno tentato un ricorso diretto alla Corte Costituzionale contro le unioni civili, ma la Corte non lo ha neanche preso in considerazione. Un'ultima cosa, avvocato Rotelli, quindi che cosa consiglia di fare adesso in questi giorni alle coppie interessate dello stesso sesso che vogliono celebrare l'unione civile? Possono provare a contattare il comune che hanno scelto per la loro unione, chiedendo se è possibile prenotarsi in attesa appunto che questo decreto venga adottato. Il Consiglio di Stato nel suo parere indicava una data, la metà di agosto, come data possibile, probabile, sì, per l'entrata in vigore di questo decreto. Se i comuni contattati accettano la prenotazione, probabilmente già subito dopo Ferragosto potrebbe essere celebrata un'unione. I confetti arcobaleno, come diceva la senatrice Cirinna, insomma. Grazie avvocato Antonio Rotelli. Grazie, prego. Buona serata. Buona serata. Ma c'è un'altra decisione del Consiglio di Stato, oltre a questa sulle unioni civili, che riguarda la fecondazione eterologa, cioè una gravidanza, un concepimento fatto con gameti che non sono all'interno della coppia donna-uomo, ma sono spermatozoi, ovuli presi dalla banca del seme o degli ovuli. Il Consiglio di Stato dice è illegittimo, a proposito della legge lombarda che fa pagare agli assistiti le spese per la fecondazione eterologa, è illegittimo discriminare tra chi fa la fecondazione omologa e quella eterologa. Ne parliamo con Filomena Gallo, che è avvocata, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, che ha seguito tante cause, no, sul tema della fecondazione assistita. Avvocata Gallo. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera. Quindi l'ultima che rimaneva era la Lombardia che faceva pagare agli assistiti la fecondazione eterologa. Con questa decisione del Consiglio di Stato si boccia definitivamente questa legge? Sì, in effetti mettiamo definitivamente la parola fine alla questione, perché la Regione Lombardia ha inteso proporre ricorso a seguito della sentenza del TAR che annullava la delibera che appunto predisponeva che le coppie sterili dovessero pagare per intero il trattamento nelle strutture pubbliche, quindi il trattamento di fecondazione assistita eterologa. Maroni ha deciso di presentare ricorso contro questa decisione. Il Consiglio di Stato ha dichiarato in modo chiaro che viene perpetrata una discriminazione nell'accesso alle cure. Non si può discriminare le persone. Addirittura è andato a precisare che la Regione Lombardia, anche se avesse avuto fondi esigui in materia di sanità, vanno distribuiti per tutti i malati. Quindi è illegittimo porre a carico di un paziente delle cure che per un altro paziente che ha una patologia meno grave sono invece a carico del servizio sanitario regionale. Insomma, si tratta di, certo, di una vittoria per i cittadini, ma è una sconfitta l'ennesima della politica che ancora una volta ha rinunciato al proprio ruolo di garante degli interessi dei cittadini, lasciando ai tribunali il compito di tutelare i diritti delle persone e affermare quindi lo Stato di diritto. Quindi da ora in poi si paga soltanto il ticket anche in Lombardia e unificata insomma tutte le altre alle altre prestazioni in materia di secondazione medicalmente assistita. Grazie avvocata Filomena Gallo. Grazie, grazie a voi, grazie. Buonasera. E direi che adesso c'è tempo giusto per qualche altro vostro messaggio prima di riaggiornarci brevemente alle 22. Per esempio Marco da Nizza dice: noi siamo passati davanti al posto di blocco la sera stessa, senza dubbio le foto sono vere, senza dubbio nessuno aveva pensato a questo tipo di attentato. Poi qualcun altro scrive: la preparazione e l'efficienza del sistema di sicurezza si misura sul numero degli attentati evitati. L'esperto di sicurezza che abbiamo sentito prima, Darny, diceva che nel frattempo ne sono stati evitati tanti in Francia. Poi Max scrive: non si può vivere blindati, è impossibile prendersela con le forze di sicurezza. Dice Max, è vero anche questo, insomma. Direi pagina Facebook di Effetto Notte è lì per voi, comunque anche una volta che finisce Effetto Notte. Noi ci risentiamo giusto alle 22 per gli aggiornamenti.